la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.08, primi 4 secondi in diretta da Milano, piovosissima e grigia, finalmente dico io, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino. Vi dice subito di che cosa parliamo oggi in questa puntata per stuzzicarvi, chiedervi se volete intervenire, il numero lo conoscete ma ve lo ripeto, 800 24 00 24, per le opinioni con gli sms 349 238 6666. No, prendiamo una boccata d'aria rispetto al, come capita sempre, eccessiva densità in radio e televisioni di analisi politiche, commenti quando c'è un turno importante elettorale come è stato in Sicilia. Quindi no, oggi torniamo a un problema strutturale del nostro paese. Perché e quale? È quello del settore dell'auto. E partiamo da una notizia che non è una notizia di cronaca, ma insomma uno sviluppo in corso a uno degli stabilimenti Fiat nei quali dal 2010 in poi si è segnata una svolta delle relazioni industriali, che è stata una pagina da una parte cooperativa e collaborativa, dall'altra, senza che ve lo debba ricordare ma ce lo ripetiamo solo in testa, conflittuale da parte della FIOM CGIL, che poi è sboccata in interventi nei vari stabilimenti, nella difesa della produzione, nell'assegnazione di nuove piattaforme da realizzare. Nel quadro però, e quindi partiremo da questo con il nostro primo ospite, nel quadro però di una riflessione complessiva, perché grazie a un rapporto che è uscito dell'ANFIA, dell'Associazione Nazionale della Filiera dell'Automotive Italiano, siamo in grado di prospettare ciò di cui si è in attesa a Pomigliano da parte dell'azienda, e cioè un quadro preciso dei nuovi investimenti per un nuovo ciclo di produzione, visto che nel frattempo maturano assegnazioni fuori Italia di realizzazione di veicoli, in particolare Panda in Polonia. Ecco, allora si tratta di metterlo in un quadro complessivo delle vicende che noi abbiamo nell'ultimo decennio alle nostre spalle, che sono state il decennio della grande crisi italiana e il decennio purtroppo di una tragica discesa della produzione nel nostro paese di auto, che nel 2013 era arrivata addirittura a poco più di 380.000 veicoli. Adesso siamo reduci da due anni di ripresa del mercato automobilistico con un certo sostegno, quasi si dovrebbero sfiorare i 2 milioni di auto immatricolate nel nostro paese in questo 2017, un obiettivo che all'inizio dell'anno, alla fine del primo trimestre, le aziende di settore, l'ANFIA poneva, anzi quasi con un certo ottimismo, malgrado i trimestri di crescita che siano registrati, ma per l'anno prossimo, quasi forse ci arriviamo quest'anno. Però nel frattempo la crisi a cui è andata incontro la produzione di auto nel nostro paese non è che sia passata, voglio dire, noi abbiamo avuto un ridimensionamento della totale di auto prodotte nel nostro paese rispetto a quelle immatricolate, che come vedremo meglio nel corso della puntata ci porta oggi ad avere tra i grandi paesi europei quello con la più bassa percentuale rispetto al totale dell'immatricolato di auto prodotte nel nostro paese. Grazie agli investimenti Fiat e Chrysler si esporta ciò che si produce nel nostro paese, però le scelte degli italiani in questi anni si sono molto modificate, e quindi oggi, se riusciamo a sfiorare i 2 milioni, vi do solo questa cifra, poi andremo nel dettaglio per capire meglio come è andata sugli occupati, quali sono le parti della filiera che ha sofferto di più, se ci sono prospettive di tornare mai ai dati pre-crisi per quelle componenti che hanno sofferto di più, le carrozzerie, i concessionari e così via. Ma a oggi solo il 40%, un po' meno il 40% di ciò che si immatricola in Italia è di produzione italiana. Negli altri paesi europei siamo in Francia larghissimamente sopra il 50%, in Germania quasi all'80%. Ecco, e nel frattempo è cambiata anche la geografia europea. Altri paesi che avevano fatto altre scelte, quelle di non tutelare solo il monopolista nazionale, chiamiamolo così, ma di aprirsi prima della crisi alla produzione di altre case automobilistiche, non solo europee ma mondiali, producono più di noi, questa è la realtà. Che cosa si può fare rispetto a tutto questo? Ecco, è un po' una riflessione di fondo su questi argomenti che riguardano l'auto, ma cominciamo però con chi si è accombattuto in questi anni nel mondo delle relazioni industriali italiane, perché la Fiat, che era molto tra virgolette tentata, vi ricordate, uscì da Confindustria e così via, di ridimensionare in maniera ancora più drastica la sua presenza nel nostro paese, e poi con relazioni industriali diverse invece si sono poste le prospettive, anche se con battaglie durissime, con divisioni anche all'interno del sindacato, si sono poste le prospettive perché così non fosse. Però a oggi bisogna compiere un altro passo molto importante, e la Fiat deve dire a Pomigliano che cosa conferma per i prossimi anni. Ecco, proprio su questo cominciamo con il nostro primo ospite, perché abbiamo con noi il segretario generale della FIM CISL, che è fresco fresco proprio di un'iniziativa su questa vicenda di Pomigliano. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Bentivogli. Buon pomeriggio a tutti. Come stanno le cose? Ma in realtà la situazione è questa: il piano industriale si conclude il prossimo anno, nel 2018. L'obiettivo del piano industriale era la completa saturazione di tutti gli stabilimenti, e ci sono degli stabilimenti che sono in sofferenza. Il primo di tutti è Pomigliano. Sappiamo che Pomigliano è ripartito vincendo tutte le classificazioni di qualità in tutta Europa, con un prodotto però a marginalità bassissima, se non al pareggio, e poi ci sono altre problematiche che riguardano sicuramente Mirafiori, sicuramente Melfi, e per cui è necessario che il prima possibile ci sia questa conferma del fatto che si attesta la produzione dell'automotive localizzato in Italia su segmenti premium, per cui a marginalità maggiore, e che si saturano questi stabilimenti con prodotti e modelli nuovi di questo segmento. Questo in particolare è fondamentale nel breve periodo a Pomigliano, perché c'è un passaggio di liana tra l'esaurirsi di ammortizzatori sociali e la necessità di almeno 18 mesi per realizzare la nuova piattaforma per costruire il nuovo modello. Perché, ma saturazione significava fine degli ammortizzatori sociali? Esatto. Mentre invece perché oggi quanti ancora ci sono a Pomigliano? Ma è bassissimo, si è ridotto di tantissimo Pomigliano, è quello che ne risente in misura maggiore, proprio perché appunto la marginalità della Panda è bassissima, e da subito noi allora si fece la richiesta del secondo modello su Pomigliano, per cui ancora Pomigliano non è completamente satura. Ma il tema vero è che la Panda a Pomigliano è stato un po' un test, un banco di prova della capacità, dell'affidabilità di uno stabilimento che aveva vissuto di cattiva stampa nella storia. Ricordo a tutti l'Alfa Sud, sì, di proprietà, certo, Iri, di Pomigliano, gli assenteismi, eccetera. L'assenteismo, esatto. E invece Pomigliano è un doppio simbolo: da Pomigliano si è interrotto un declino complessivo del settore. Ricordo a tutti che si era appena chiuso Termini Merese, e non accettare quell'accordo di Pomigliano d'Arco avrebbe dato un buon alibi all'azienda a dire: non esiste un terreno di affidabilità delle relazioni industriali in Italia, per cui dopo Pomigliano si passa a Melfi, a Cassino. Io sono Mirafiori, tra quelli che all'epoca scrissi e dissi che con ogni probabilità nella testa di Marchionne era esattamente questa la sua scommessa, cioè che non ci sarebbero create le possibilità, e a quel punto si smantellava. Beh, in realtà se si vedono questi dati appunto sull'inchiesta di Patti, in realtà il mercato in quel periodo era meno della metà, cioè in Italia si vendevano poco più di 400.000 auto, e non erano tutte auto italiane, sì. E per cui la conferma di tutti gli stabilimenti era assolutamente difficile. Quello che ha portato la possibilità di tornare a investire è stato un rilancio delle relazioni industriali, appunto su un terreno di affidabilità reciproca. È chiusa la vicenda tra voi e la Fiom in Fiat? Ma è chiusa nel senso, una sentenza della Corte Costituzionale ha riammesso in misura paritetica le RSA, per cui c'è una parte di diritti sindacali che derivano dalla sottoscrizione dell'accordo interno, ma in realtà è come accade anche da altre parti, cioè adesso non per farla lunga, ma fu la revisione dell'articolo 19 che sostenne proprio la FIOM nel 95, che porta la possibilità di avere agibilità sindacali maggiori solo se si è firmatari di contratti. Però poi avevano cambiato idea. Fu una buca che scavarono loro contro i Cobas e poi ci cascarono dentro. Sì. Però è risolta. Attualmente, insomma, visto che ci furono anche episodi, insomma, diciamo, di contrasto fisico, non ci sono più. Beh, sicuramente la situazione è molto più tranquilla, la situazione si è calmata. È chiaro che noi auspichiamo, il prossimo anno scade il CCSL, cioè il contratto di gruppo, auspichiamo che la FIOM rientri dentro un percorso normale nella trattativa, nel riconoscimento degli accordi e nella costruzione di quelli nuovi. Ma l'azienda, rispetto al fatto che ci vogliono poi tempi tecnici, perché dall'assegnazione di una piattaforma la si realizzi davvero, visto che la Polonia dovrebbe partire a fine 2020, massimo inizio 2021, quindi la Panda se ne va, tentenna aspetta cosa? Cioè voi che impegni avete da parte loro? Quando ve lo diranno? Ma l'impegno che ci conferma oggi Marchionne per noi non è accettabile. Marchionne sostiene che non può darci notizie del modello. Cioè, da un lato è vero che non è mai stato annunciato nella storia della Fiat un modello per troppo tempo di precedenza per non bruciarlo. Dall'altro lato noi rivendichiamo di conoscere i modelli produttivi un po' prima dell'Investor Day. Cioè non può essere che arriviamo in primavera con che questa che sarebbe quasi a metà dell'anno prossimo. Esatto, perché se ci sarà come ci deve essere il nuovo modello su Pomigliano, l'ingegnerizzazione, la realizzazione della piattaforma deve partire al più tardi a gennaio. Per cui queste ultime battute d'anno sono assolutamente fondamentali per avere tutte le notizie di cui necessitiamo. Tra l'altro siamo abituati ad avere buone, meno buone e cattive notizie, per cui sappiamo che le relazioni industriali vivono di queste vicissitudini, però appunto si tratta di tornare a investire sulle relazioni industriali. Avevamo fatto un passo positivo col CCSL, è un po' troppo tempo che questa interlocuzione sia un po' indebolita, ecco. Ma io faccio un'ultima domanda: ma voi avete mai percepito in questi ultimi periodi, nei rapporti con l'azienda, avete mai, cioè con la Fiat, avete mai avvertito segni che in qualche misura possano far pensare, solo far pensare, senza sospetti, ma qualche ragionevole impressione che, poiché c'è una data fissata per l'uscita da Marchionne, che è, se fosse rispettata, ma a cavallo dei nuovi modelli designati e indicati per stabilimento, ci sia, per così dire, un rallentamento delle decisioni strategiche organizzative dell'azienda? No o sì? In realtà non è quello il motivo. Io credo che il motivo fondamentale sia la possibilità di partecipazione alla seconda fase di consolidamento che sta avvenendo in tutto il mondo. In tutto il mondo i grandi player storici stanno procedendo a fusioni e contemporaneamente ne nascono in Asia di player nuovi completamente ignoti fino a poco tempo fa. La possibilità di partecipare a queste operazioni, di questa grande alleanza strategica, devo ricordare che quella con Chrysler è stata di grande successo perché ha consentito di conquistare dei mercati dove Fiat non vendeva nulla. Il fatto che oggi partano da Renegade, 500X, Giulia, Stelvio, perché stiamo parlando comunque di Chrysler, per quanto la più piccola dei tre giganti, però stiamo parlando del 23% del mercato americano, quindi insomma. Esattamente. Il problema è che il mondo dell'auto cambierà radicalmente sia dal punto di vista dei combustibili sia per quello che riguarda è proprio questa la cosa infatti in cui anche andremo nel corso della trasmissione, perché la Fiat Chrysler resta A, debole per errori del passato in Asia, e B, per quello che riguarda l'elettrico, sì, ha fatto un'altra scelta da sempre, metano eccetera eccetera, però lì è particolarmente arretrato. Cioè, anzi, Marchionne è quello che ha l'ultimo grande salone di Francoforte, ha fatto la sparata più dura contro l'elettrico dicendo non ci credo, nel senso che attualmente facciamo il computo totale dell'energia necessaria per produrre batterie, smantellarle dopo eccetera eccetera, in termini di emissioni la propulsione solo elettrica è oggi ancora ancora più energy consuming di quanto non sia il tradizionale, la tradizionale propulsione termica dentro. È l'unico a pensarla così, perché nel frattempo c'è stata un'accelerazione dopo lo scandalo diesel micidiale, lo vedremo più avanti, ma gli annunci di tutte le grandi case produttrici mondiali, dai tedeschi a ovviamente l'asiatica eccetera, sono un'accelerazione bestiale proprio su un settore di propulsione su cui la Fiat, ohimè, non so come la pensa Bentivogli, ma è un po' indietro parecchio. Ma si è indietro, solo che la potenzialità e le possibilità di recupero in casa, come sta procedendo a una strategia di riduzione dell'indebitamento, no, non ci sono, e per cui è necessario coronare la grande alleanza a livello internazionale e dedicarsi al nuovo, al mondo nuovo dell'auto, e per cui queste sono le due cose. Il dato vero è che la curvatura della transizione all'elettrico sembra, più che dalle varie previsioni, ma dagli annunci di quanto le flotte delle altre case automobilistiche cambieranno non tra 10 anni ma nel 2021, di correre molto più velocemente di quanto pensavamo. Allora, io nel ringraziare e fare i miei auguri e complimentarli perché per quello che fa Bentivogli con la sua organizzazione, parto proprio di qua, perché vi ricordo che è l'effetto del post diesel in Germania. Tenete conto che comunque la Merkel li ha difesi alla fine, le sue aziende, e io in questo la critico con un eccesso di disinvoltura. Io l'ho criticata più volte anche durante la campagna elettorale. Certo, si tratta di difendere 900.000 occupati, però l'effetto comunque c'è stato, perché Volkswagen, che è quella al centro dello scandalo dieselgate di questi anni, ha annunciato proprio poco prima di Francoforte, quindi 2 mesi fa, 20 miliardi di investimento per realizzare entro il 2030 una versione full electric di ognuno dei suoi 300 modelli, dei suoi 12 brand attuali, e la bellezza di altri più di 20 miliardi di euro di investimenti sull'ottimizzazione delle batterie. Pensate qual è il livello, l'entità degli investimenti messo in campo da Volkswagen. E del resto BMW ha dichiarato 12 modelli elettrici, 13 ibridi entro il 2025, quindi ancora prima. Mercedes ha annunciato 10 miliardi di investimenti, di cui 4 da non indolore risparmi di costo attuali, per una versione elettrica di ogni suo modello entro addirittura il 2022. Io qui stento a crederci, però l'annuncio fatto da Mercedes a Francoforte 2 mesi fa è questo. Volvo, sapete, adesso è cinese da qualche anno, accelera anche lei, al 2019 promette che tutte le sue vetture saranno o elettriche o ibride. Ford, che pure anch'essa era molto indietro, la Ford americana, ha annunciato che al 2022 c'ha ibridi per ogni modello della Lincoln, che è uno dei suoi brand. E come vi ho detto, Sergio Marchionne ha detto invece l'introduzione forzata di vetture elettriche è una minaccia al pianeta, ha detto testualmente, la ragione ve l'ho spiegata. A questo punto, dopo Marco Bentivogli, per ricordarci che comunque la battaglia per difendere l'auto in Italia in vista degli investimenti che sono necessari per il futuro, e vedete qual è l'ordine di grandezza di fronte, qui stiamo parlando solo delle propulsioni elettrico ibride, poi c'è la guida prima assistita e che sarà autonoma, che è l'altra grande sfida, oltre ovviamente alle auto iperconnesse tecnologiche, e anche lì servono pacchi di miliardi per ogni produttore da investire. La battaglia è ancora aperta e bisognerà tenere sempre gli occhi aperti da parte dei governi, ma dare una mano a chi lì rappresenta i lavoratori del gruppo FCA in Italia. Però è il caso anche di fare a questo punto una riflessione retrospettiva, e appunto abbiamo con noi Fabrizio Patti, che è giornalista dell'Inchiesta, che ha fatto questa articolessa oggi che ha citato anche Marco Bentivogli, per farvi capire il bilancio decennale, cosa abbiamo perso in termini di occupazione, dove, quanto, come si è modificato il mercato italiano, quale componente vanno forte, quale invece sono quasi sparite, e soprattutto che cosa si può immaginare per il futuro. Allora, grazie Fabrizio Patti di essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera Oscar e agli ascoltatori. Allora, ricordiamo, questi sono dati Ampia, però iniziamo col dato drastico di quanti occupati c'erano e di quanti occupati ci sono. Allora, quello che viene fuori dalla ricerca dell'Anfia è molto interessante, perché appunto magari ci si poteva aspettare dalle notizie che si colgono qua e là che ci fosse stato in questi anni un crollo degli addetti alla produzione di automobili. In realtà quello che dicono i dati dell'Anfia è che i lavoratori che producono direttamente all'assemblaggio di automobili non sono scesi molto. Nel 2008 si sta parlando di 68.500. Cioè erano scesi molto già prima, questo è il punto di fondo. Sì, beh, sicuramente rispetto, cioè, io ricordo sempre che, siccome sono cresciuto di fronte alla Fiat Mirafiori, esatto. Ecco, la Fiat Mirafiori lavoravano, quando ero piccolo io, cioè all'inizio degli anni 60, più lavoratori in quel solo stabilimento di quanto non ne lavorassero nel 2008 in tutta Italia e ovviamente oggi. Questo per dire quanto è dimagrita, ecco, l'occupazione nel settore. Esatto, esattamente. Ecco, diciamo che dal 2008 al 2015, che sono gli ultimi dati comunicati, in realtà sì, sono state perse 2.500 persone, ma c'è stato quindi un calo tutt'altro che... Siamo scesi solo da 68 a 66.000, ma però... Esatto. Ma però... Ecco, no, il calo c'è stato invece in tutta l'area che è quella della componentistica, lì c'è stato un calo invece molto più... evidente, da 86.000 a 72.000 dipendenti, e un calo percentualmente ancora superiore, sono quasi dimezzati i lavoratori che invece sono nel settore della produzione di carrozzerie. Quindi ecco, tutto quello che è stato attorno alla vecchia Fiat che aveva cuore, polmoni e testa a Torino è stato molto colpito, più che i lavoratori della stessa FCA. Chiaramente c'è stato chi ha saputo cambiare, sportare, agganciarsi alla domanda internazionale e quindi fornire altri produttori, ecco, però in questo percorso ci sono stati molti, molti caduti, diciamo. Perché se sommiamo i 14.000 persi nei componenti, poi i 9.000, 8.000 diciamo così, e quindi siamo a 24.000 quelli delle carrozzerie, i 2.000 nell'auto, insomma siamo a 30.000, e poi vedremo, perché avremo un terzo ospite, nei concessionari anche lì la crisi è stata pesante. La diminuzione molto significativa della componentistica ci dice una cosa però, Fabrizio, perché se andiamo a vedere... come la componentistica, che è classicamente una eccellenza della meccanica medium high tech italiana, che cosa è successo? Che per effetto della crisi Fiat, cari ascoltatori, è chiaro che le classi dimensionali della componentistica tradizionale della vecchia Fiat sono dovute andare incontro a uno sconvolgimento, a uno tsunami, e quindi le piccole molto spesso, se non avevano una specializzazione in componentistica ad alto o altissimo valore aggiunto, o ahimè sono morte. Questo spiega il drastico calo degli occupati, mentre quelle che erano nella posizione media e alta della filiera del valore aggiunto ovviamente hanno dovuto drasticamente diversificare, aprendo la loro partecipazione alle gare di componentistica di tutti i maggiori gruppi mondiali, a cominciare da quelli tedeschi. E infatti l'export è una voce molto positiva su questo, però gli occupati sono meno. È così, Fabrizio? Sì, assolutamente. Quello che mi colpisce molto è la crescita dell'export. Se guardiamo anche solo semplicemente alle automobili, noi vediamo che adesso il 65% delle auto prodotte viene esportata, e se si considerano i camion e i veicoli commerciali, qui c'è una quota che raggiunge addirittura l'81%. Quindi è una quota che mi ha molto colpito, devo dire, è segno anche di come sono ormai interconnessi tutti i mercati. Detto questo, ricordiamo a chi è in ascolto però che è un errore considerare l'automotive considerando solo i 66.000 che producono auto Fiat Chrysler, perché noi dobbiamo fare il totale di che cosa significa l'indotto, e la cifra a quel punto diventa, cioè l'auto è ancora una componente fondamentale del PIL italiano. Lo è assolutamente. Noi alla fine, sommando veramente tutto, arriviamo a 1.161.000 occupati. In questo ci mettiamo per esempio 92.000 venditori di auto, 194.000 meccanici, poi non vorrei dare troppi numeri, però ecco, se cominciamo poi a contare i 300.000 camionisti e i 160.000 tra guidatori e tassisti vari, ecco, sì, arriviamo a dei numeri molto alti. Ecco, se noi prendiamo tutte le imprese dei settori industria, commercio e servizi, cioè se noi prendiamo di fatto quasi tutto il privato, stiamo parlando di 15 milioni di lavoratori, il 7,4% di questi occupati afferisce al settore automotive. No, ecco perché resta fondamentale tentare di difendere l'eccellenza della produzione italiana, che è fatta sia delle piattaforme dei veicoli, sia della componentistica e delle parti elettriche ed elettroniche. Adesso andiamo a vedere cosa è successo in borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo con Fabrizio Patti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati, stiamo parlando dell'auto, abbiamo iniziato con Pomigliano, con il segretario della FIMCISL, che ci dice l'azienda ci deve dire su cosa andrà la produzione di Pomigliano. È fondamentale non perdere altri mesi, perché nel ciclo delle assegnazioni prima della reingegnerizzazione di partire passano un anno e mezzo, quasi due, e quindi noi dobbiamo sapere, avendo dato prova cooperativa nella nuova relazione industriale dal 2010 in avanti, ed è una vicenda che ovviamente seguiremo, perché l'importanza è difendere la presenza italiana, che ci è costata sangue, proprio sangue, perché pensate che nel decennio alle nostre spalle la produzione complessiva di autovetture in Italia si è ridotta del 50%, se iniziamo dal 2007 al 2016, eravamo in minimo storico 338.000 nel 2013, adesso sta risalendo perché risale, ma risale con una modifica sostanziale del mercato italiano, perché abbiamo paesi come la Germania, la Spagna, che producono quasi due autovetture nei propri paesi rispetto a ogni nuova vettura immatricolata, esportano tantissimo, ma insomma sono a percentuali molto elevate sul totale delle scelte che fanno i clienti in quei paesi. Da noi produciamo un numero di auto che è 4 su 10 rispetto al totale delle immatricolazioni italiane, ma come avete sentito da Fabrizio Patti, che resta con noi, una bella quota la esportiamo di quelle che produciamo qua, e in realtà quindi il mercato italiano, se andiamo a vedere quanto compra italiano, oramai è sotto il 30%, il 28%, il 29%, il 29%. Sono cambiate le scelte degli italiani, e questo la dice lunga rispetto all'offerta Fiat Chrysler complessiva, perché l'offerta nei settori premium e SUV è un'offerta che ha perso enormi punti, perché la Fiat negli anni precedenti, lo sappiamo, aveva saltato più cicli di investimento sui prodotti, e le aziende automobilistiche quando fanno questo vanno a sbattere il muso, stante il fatto che è un segmento capital intensive, e lo diventa ancora di più di fronte alle nuove sfide della propulsione elettrica o ibrida, dell'iperconnesso e della guida assistita e poi automatica. Ma un'altra filiera è andata incontro a problemi seri. Se andiamo a vedere il bilancio complessivo, abbiamo visto che cosa è successo per l'automotive, esporta tantissimo, però c'è stato un drastico ridimensionamento degli occupati, perché i più piccoli della componentistica tradizionale sono scomparsi, sono morti nella crisi. E adesso andiamo a vedere con il presidente della associazione che riunisce coloro che poi le automobili le vendono, per così dire, no? E il presidente di Federauto, la Federazione Italiana dei Concessionari Auto, Filippo Pavan Bernacchi, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Se andiamo a vedere il bilancio complessivo di questi anni, il settore quanto ha perso, che prospettive ha rispetto alla ripresa delle immatricolazioni di questi due anni e mezzo ormai alle nostre spalle, che cosa si può considerare che non raggiungeremo più rispetto ai livelli di pre-crisi, e che cosa invece come obiettivo si può pensare, facendo scelte giuste, di recuperare? Al 2007 a oggi il mondo della distribuzione e dei concessionari in primis si è stravolto completamente. Noi abbiamo perso il 40% dei concessionari, anche se non abbiamo poi dilapidato in pari misura gli addetti e quindi chi lavora nel comparto, perché grosso modo abbiamo perso il 20% degli occupati, questo per effetto delle concentrazioni, perché nel mondo automobilistico succede quello che è successo un po' con la grande distribuzione, per cui il modello di business si sta spostando verso i grandi, quindi le zone che sono state lasciate libere da chi non c'è più sono state prese da altri concessionari che si sono allargati, quindi multisede e multibrand. Quindi stante le caratteristiche della scelta di italiani, essere multibrand è praticamente un imperativo. Sì, è un imperativo anche per diversificare i rischi, mentre dall'altra parte il parco circolante è tornato ad invecchiare, perché mediamente, esatto, oggi una vettura nel 2016 aveva 10,4 mesi e nel 2007 aveva 7,5 mesi, quindi abbiamo un parco circolante di 36.420.000 vetture, di cui il 22%, e quindi 8 milioni e 100 mila, sono ante Euro 3, quindi altamente inquinanti e anche spesso non dotate di dotazioni di sicurezza importanti tipo ABS, airbag, SP. Dispositivi che hanno consentito di risparmiare 4.000 vite all'anno, perché noi grazie all'introduzione di questi dispositivi in Italia stiamo salvando, cioè muoiono 4.000 persone in meno, che è molto molto importante. Per quello che riguarda le prospettive, noi siamo andati nel 2013 a un mercato di 1.300.000, che era il picco negativo, e contemporaneamente il picco negativo dell'Europa a 12.300.000. Oggi siamo al 50% in più, è previsto che arriveremo circa a 2 milioni, a sfiorare i 2 milioni, mentre l'Europa dovrebbe arrivare attorno ai 15 milioni, quindi sì, un milione in meno del periodo pre-crisi. E le sfide che dobbiamo affrontare sono tantissime, perché avremo bisogno anche della politica per capire come vogliono ridisegnare la mobilità del futuro, quali sono le tecnologie, quindi le motorizzazioni che i governi prediligono per l'inquinamento, e anche se sono temi molto dibattuti, perché per esempio se prendiamo, come accennava prima, il ciclo di produzione di un veicolo elettrico rispetto a uno a metano, l'impatto ambientale è lo stesso, tenendo anche conto che l'energia elettrica spesso viene prodotta da centrali a idrocarburi. No, non c'è dubbio. Quindi, il problema posto da Marchionne non è un problema inventato. Se uno fa il bilancio complessivo energetico e in termini di emissioni, a oggi, pur in presenza, questo va detto, cari ascoltatori, noi siamo in presenza di un costo di una classica unità propulsiva, di una, per esempio, di una Nissan Leaf. La Nissan è stata la casa produttrice all'avanguardia dal 2010 nella propulsione solo elettrica. Ecco, se pensate, i miglioramenti di costo, cioè di efficienza di un'unità propulsiva a batteria, sono in questo ordine di grandezza. Cioè, nel 2010 all'inizio costava più di $400 a kilowattora la batteria di Leaf Nissan, e oggi a parità di potenza, quella innestata su una Tesla, anche se Tesla, io ho un'opinione industriale sul fatto che non sia sostenibile il suo bilancio, e questa settimana ha sofferto e continuerà a soffrire, non ha mai prodotto un dollaro di utile, Tesla continua a bruciare cassa per centinaia di milioni di dollari, ma comunque rispetto ai $400 a kilowattora del 2010, 7 anni fa, della Leaf Nissan, l'unità propulsiva elettrica della Tesla è scesa a $190. Il Dipartimento per l'Energia americano stima una discesa a $125 per kilowattora al 2022. Questo che cosa significa? Significa non che abbiamo, per capirci, il mercato delle solo elettrico in Italia nel 2016, in Italia sono comprate solo 1.375 macchine elettriche, e di queste 1.375 solo 215 erano private, adesso sono le aziende per le flotte aziendali, e a settembre 2017 se ne hanno vendute 1.423 in Italia. Ma qual è il problema? Il problema è che mentre negli altri paesi europei quegli annunci delle case produttive che vi ho detto prima sull'elettrico e l'ibrido sono accompagnati da misure di sostegno politiche fortissime che non sono mai state sospese in questi anni di crisi praticamente, noi invece, che avevamo dati bonus per le auto prima, negli anni di crisi li abbiamo sospesi per via di finanza pubblica e non solo. Questo è il punto, e la domanda che vi fa Filippo Ambernacchi è centrale, perché si tratta di capire adesso la politica di fronte al nuovo piano energetico, la nuova strategia energetica nazionale è in discussione ancora, ma poi bisogna fare il piano energetico nella prossima legislatura, visti gli obiettivi di contenimento delle emissioni, siamo rimasti in COP21 e così via, che tipo di mix propulsivo scommette di incentivare e con quanto lo incentiva? Ecco, questa è la domanda fondamentale. Io sono contrario in generale agli incentivi, ma di fronte a uno switch propulsivo di emissioni di questa portata come quella verso la quale ci stiamo impegnando, e il punto è fondamentale, perché significa altrimenti vivere in un'Europa in cui gli altri hanno incentivi fortissimi, noi no, e avendo una produzione locale da difendere di un produttore che è arretrato. Attenzione, perché queste tre condizioni sono fondamentali per difendere l'auto nel nostro paese. Adesso andiamo alle notizie sulle strade e poi torniamo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La la versione di Oscar. Risposta random a un po' di ascoltatore con gli SMS. Sì, è vero, il calo della produzione italiana non è solo in quest'ultimo decennio, era cominciato prima, appunto perché la Fiat aveva saltato le cicli di investimento, quindi dalla fine degli anni 90 la Fiat è andata nei guai, e quindi non c'è dubbio, prima della crisi per errori industriali e finanziari. Chi aveva diversificato in Fiat ha sbagliato tutto e non capiva niente, per così dire, della strada battuta dai competitor. Seconda, questa è un merito ai tanti tassisti che ci ascoltano, un saluto a loro che stanno lavorando, e i tassisti sono l'avanguardia del libro nel nostro paese. Non è un caso che il protagonista assoluto del mercato del libro nel nostro paese è Toyota, con due veicoli in particolare, e i tassisti ne hanno tantissime, e quindi dicono la Fiat dov'è? Qui non c'è. Infatti l'errore della Fiat è stato, ed è anche questo il ritardo su questo. Terza domanda, il diesel, guardate, il diesel, se andiamo a vedere cosa sta succedendo in Europa, per esempio in Francia il diesel è sceso dal 73% che nel 2012 totale del mercato, ad agosto era, di quest'anno, era il 47,8%, è ancora tantissimo. Perché è sceso ad agosto 2017 sotto il 50% per la prima volta? Perché il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha detto: io vieto il diesel dal 2025. Ecco. Allora, il problema è, noi stiamo andando a scelte di questo tipo. In Italia il diesel ad agosto era ancora il 56,7% delle vendite, uguale a un anno prima. Ma il problema è che se prendiamo sul serio la nuova propulsione, il fatto che costa di meno e quindi si potranno fare auto non solo del settore premium elettriche, e che comunque le ibride aumenteranno, perché i giapponesi, e non solo loro, sono all'avanguardia, ma arrivano anche i tedeschi, e su questo la percentuale di diesel scenderà per forza, e il problema è quanti incentivi. Io vi faccio un solo esempio, visto che due settimane fa il leader pentastellato Luigi Di Maio ha detto: al 2020 un milione di auto elettriche rispetto ai 1.400 vendute nei primi 9 mesi nel nostro paese. A me è scappato da ridere, perché per un milione di auto elettrico, visto il costo medio attuale, se pensassimo di dare un incentivo di 6.000 euro ad auto, ci vogliono 6 miliardi di incentivi solo per fare quello che dice Di Maio, e comunque entro il 2020 è un obiettivo improponibile. Politici, non dite cazzate, scusate se ve lo dico in termini chiari. Allora, Stefano da Padova, cosa voleva dirci Stefano? Buonasera Giannino, sarò telegrafico come sono stato invitato a fare. C'è una vecchia massima del marketing che dice che l'uomo non ha bisogno di trapani ma di buchi nel muro. Vero. Quindi non è detto che in questo momento di totale modificazione degli stili di vita e degli ambienti ci sia necessità di auto. L'uomo ha bisogno di spostarsi, non dell'auto. Sì, ha bisogno di spostarsi. Io la invito però su questo. Oggi è uscito un interessantissimo pezzo. Se va sulla voce.info, sul sito della voce.info, del professor Marco Ponti, che è il mio ospite abituale, e vedrà che c'è una tesi in controtendenza. Dice: no, andiamo ad esaminare il futuro del trasporto privato e pubblico, in sharing e così via. In Italia resterà la strada, non la ferrovia. Meno miliardi in tecnologia vecchia alla ferrovia, e più invece, esattamente, nel passaggio alla bassa emissione, al condiviso, allo sharing, nella mobilità umana urbana intelligente, le smart city, all'ibrido e così via. Lo vado a leggere, perché è un articolo che mi ha molto colpito, esattamente su quello che dice lei. Non è detto che abbiamo bisogno del numero e dell'intensità di consumo che era nel passato italiano, ma noi siamo un mercato saturato, dobbiamo lavorare sulla sostituzione. E il problema è, caro Fabrizio, quanto riusciremo a tenere il passo degli altri paesi esattamente sulla guida assistita, la guida poi autonoma, l'elettrico, secondo te? Allora, domanda chiaramente aperta. Io intanto mi unisco al riconoscimento al grande lavoro e al coraggio di Marco Bentivogli della FIM riguardo alla produzione della Fiat FCA in questi anni in Italia. E adesso però il vero tema è cosa succede di qui in avanti. Intanto posso dire, prima si poneva la questione di quale sia l'orientamento della politica. Intanto noi dobbiamo dire con estrema chiarezza che abbiamo un grande paese, che è la Cina, che sta scommettendo in una maniera che più chiara non sarebbe possibile sull'elettrico. Mm-mm. Tanto per dare un'idea, per una piccola macchina la Chery EQ, cito il modello, tanto non si vende qua, ci sono il prezzo finale è 60.000 yuan e l'incentivo è 100.000 yuan, sono 13.000 euro di incentivo. Rapportato al costo della vita cinese si fa capire quanto stanno incentivando i cinesi l'elettrico. Mettiamo altri due punti, il grande piano della State Grid of China sulla interconnessione globale utilizzando le nuove reti ad alta velocità che farebbe trasportare in maniera estremamente più veloce ed efficiente senza dispersioni l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ultimo dato, in Arabia Saudita un impianto per la produzione di energia elettrica fotovoltaica ha avuto questa offerta di $17.9 a megawattora. Ah, sì, a megawattora. Allora, nel 2009, ricordate questa cifra, $17.9, nel 2009 il prezzo medio per gli Stati Uniti era $350. Sì, esattamente. Quindi stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di tassi di aumento del rendimento che sono ben oltre la parità rispetto al costo energetico complessivo e al rendimento del motore termico. Detto tutto questo, o noi decidiamo quale strada battere su questo, o difendere quel che resta, ma è stato straordinario difenderlo, della produzione di auto in Italia, diventa ancora più complicato e prescinde dalle scelte che farà Fiat, perché noi dobbiamo chiamare gli altri produttori anche, è stato un errore non farlo in passato. Grazie a Fabrizio Fatti, grazie a tutti voi, appuntamento 8:15 domani, 24 mattino con Luca Telese, poi pomeriggio alle 16 qui alla versione di Oscar.